questo mercoledì 26 ottobre, beh, non c'è che dire, le aperture sono unanimi, ovviamente è il giorno decisivo sul fatto che Berlusconi andrà in Europa e sulla tenuta del governo. Certo, ci sono molti, molti segnali discordanti. Pensioni, stop di Bossi sull'anzianità, così titola Il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, una piccola intesa per l'Europa. Per Repubblica, governo, mini accordo per salvarsi. La Stampa, mezza intesa alla prova dell'Unione Europea. Libero, l'accordo c'è, il governo non si sa. Il Messaggero, pensioni, prove d'intesa per l'Unione Europea. Il Giornale, Berlusconi ce la fa ancora. Questi alcuni titoli sulle pensioni. Il Fatto Quotidiano invece sceglie assalto a TG3 e Mediaset in grassa. Queste alcune delle aperture dei giornali, vedremo qualcos'altro nel corso della rassegna stampa. Intanto però voglio partire subito dalle segnalazioni, dai giornali. La prima l'abbiamo sentito anche in GR24, siamo ormai quasi 7 miliardi sulla terra. Cari ascoltatori, 7 miliardi, l'ONU ha scelto come data simbolica, ovviamente, lunedì prossimo, il 31 ottobre, il giorno in cui nascerà l'abitante numero 7 miliardi della Terra. Arriva il bimbo numero 7 miliardi, India e Africa si disputano il record. Così pagina 21 del Corriere della Sera, Danilo Taino racconta come ci sia anche questa disputa, no? Qualche anno fa, nel 99, fu scelta Sarajevo con Adnan Mevic. Il 12 ottobre del 99 il segretario dell'ONU Kofi Annan scelse Sarajevo e questo cittadino, per dire, questo è l'abitante numero 6 miliardi. Il numero 7 miliardi dove sarà? Sarà in India? Sarà in una città dell'Africa? Secondo gli indiani ovviamente sarà in India, secondo i nigeriani sarà in Nigeria, c'è questa disputa, secondo i cinesi sarà in Cina, lì nascono in tanti e quindi la Cina li vogliono tutti, tutte le volte vogliono il bambino simbolo. Resta però la storica domanda sullo sfondo ben più seria di questa disputa di colore, e vale a dire: la terra può sostenere tutte queste persone? Le risorse della terra sono abbastanza per tutti, anche perché saremo 10 miliardi entro la fine del secolo, pare, questo secondo le stime demografiche, di crescita demografica. E allora il dibattito tra i neomalthusiani, no, i seguaci di Malthus, e coloro che invece vengono definiti, come la stampa li definisce, i pro-life, no? È un dibattito che prosegue da secoli, dalla fine del 1700, dalle teorie di Malthus appunto, fino a oggi. Anche La Stampa vi dedica due pagine, la bambina 7 miliardi, si è deciso che sarà una bambina, sarà femmina e nascerà in una megalopoli africana. Ecco, per La Stampa, in una megalopoli africana. Sta di fatto che la domanda sulle risorse della terra, la redistribuzione delle risorse e la se siano meno sufficienti queste risorse, questa è la domanda base che c'è. La seconda segnalazione che vi voglio dare dai giornali è dal Messaggero, a pagina 15, due storie di carcere. La prima riguarda la Franzoni. Anna Maria Franzoni, sono passati da poco più di 3 anni, ricordate, da quando era rinchiusa nel carcere della Dozza a Bologna per l'omicidio del figlio Samuele, il delitto di Cogne, ha ricevuto le visite dei suoi parenti, ha visto i figli sempre dietro le sbarre. Ora, dopo 3 anni, chiede la prima licenza premio per uscire. La prima le fu negata per andare al funerale del suocero. Questa volta, dopo aver avuto una condotta da detenuta irreprensibile, frequentando corsi di cucito in cella con Vanna Marchi, impegnata in 1000 attività, fa sapere Cristiana Mangani sul Messaggero, ha chiesto una licenza premio e la domanda pende al tribunale del riesame, al tribunale di sorveglianza, diciamo, che deve fare una scelta. La seconda storia di carcere, giustamente, o ex carcere, meglio dire, il Messaggero li accomuna. Sollecito, andrò a Seattle con Amanda, ci sentiamo tutti i giorni. Pochi giorni fa erano le aperture dei giornali, ora sono già state un po' messi nel dimenticatoio. Amanda Knox e Raffaele Sollecito assolti per non aver commesso il fatto, l'omicidio di Meredith Kerch. Ora Raffaele Sollecito, per la verità lo fa al giornale, al settimanale Oggi, annuncia Ci sentiamo tutti i giorni, ci scriviamo con Amanda, tornata a Seattle. Certo che andrò a trovarla. È stata lei a invitarmi, ho accettato con gioia e non è detto che aspetti Natale. Potrei andare anche prima. Questo lo trovate sul Messaggero a pagina 15 e noi, prima di tuffarci sul dilemma pensioni e il dilemma tenuta del governo, ci fermiamo 6 minuti. 24 mattino. E allora, eccoci, le 7:34 minuti. Il giorno è decisivo perché Berlusconi va a Bruxelles. Qualcuno giustamente mi fa notare: ma come va in Europa? Noi dove siamo? Ma sì, dai, ci siamo capiti adesso. Intendevo, va a Bruxelles a parlare con i vertici dell'Unione Europea. Oh, così siamo tutti più precisi. Allora, la Padania. Per il secondo giorno consecutivo voglio aprire con questo titolo perché... perché bisogna ovviamente stare attenti a quelle che sono le posizioni della Lega. Pensioni, la Lega non molla. Umberto Bossi, quelle di anzianità non si toccano. Individuata una strada alternativa che sarà illustrata stamani dal Premier a Bruxelles. Ecco. Cos'è questa strada alternativa? Cos'è questo accordo? Ieri il ministro Gelmini da Ballarò in realtà ha annunciato qualcosa, l'idea che sarà innalzata a 67 anni per tutti la questione delle pensioni di vecchiaia, ma a partire dal 2026 in maniera progressiva. È questo il senso dell'accordo sul quale si hanno trovato un'intesa, e poi bisogna vedere quanto fragile o quanto forte Berlusconi e Bossi. Secondo Sole 24 Ore, accordo senza pensioni di anzianità, così il titolo a pagina 3, Berlusconi strappa ai leghisti una mini intesa molto precaria. Così Barbara Fiammeri, a un passo dalla crisi, nonostante la mancata rottura con la Lega, Silvio Berlusconi è il primo a esserne consapevole. Oggi si recherà a Bruxelles per rassicurare le autorità europee, soprattutto i mercati del rilancio dell'Italia, ma è un'impresa ardita nonostante i tentativi di rassicurare operati da Angelino Alfano, che in serata annunciava urbi e torbi l'accordo con la Lega. Bossi in realtà ha concesso assai poco, nulla sulle pensioni di anzianità, la carta che più di ogni altra il Premier avrebbe voluto giocarsi, qualcosa forse sull'età di vecchiaia delle donne. Tra l'altro il Sole fa sapere del gelo di Tremonti, ieri una giornata molto convulsa, quando Berlusconi e Letta a Palazzo Grazioli sono stati raggiunti dai ministri Brunetta e Romani per mettere appunto la lettera da consegnare appunto oggi a Bruxelles. Tremonti aveva da tempo lasciato la residenza del Premier, quasi a voler lasciare intendere in modo plastico che lui con quel testo aveva poco a che fare. Da qui l'ira di Berlusconi. Tra l'altro ovviamente si sbizzarriscono i ritroscenisti oggi sui giornali. Secondo La Stampa, Tremonti a un certo punto avrebbe detto a Berlusconi questo: non hai capito che il problema sei tu? Con questo accordicchio a Bruxelles non puoi andarci. Sta di fatto che bisogna capire se questo è un accordo vero, se è un accordo forte, se questo accordo, soprattutto portato all'Unione Europea, portato a Bruxelles, reggerà per i vertici dell'Unione Europea, reggerà per i mercati. Certo, oggi a vedere tre editoriali che vi voglio proporre, del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, di Repubblica. Sono tre editoriali da tre giornali diversi, tutti e tre però molto duri. Magari da Repubblica è più comprensibile, insomma, non è la prima volta certo che Repubblica attacca Berlusconi, non è una novità. Ma sentite Roberto Napoletano, oggi direttore del Sole 24 Ore, in prima pagina: la responsabilità etica del Premier, questo è il titolo. Non possiamo permetterci di prendere in giro l'Europa, perché vorrebbe dire prendere in giro noi stessi. Dopo quello che definisce il teatrino sbagliato di Merkel e Sarkozy, scrive il direttore del Sole, una ragione in più per porre fine all'inverecondo teatrino italiano che vede un premier e il suo governo in fuga dalla responsabilità di decidere e in servizio permanente effettivo per la ricerca dell'ultimo compromesso o dell'ultimo voto per sopravvivere in Parlamento. No, presidente Berlusconi, l'Italia viene prima di tutto, il lavoro e il risparmio degli italiani sono materia delicata, bisogna maneggiarla con cura, non basta scrivere lettere all'Europa, faccia quello che serve al suo paese, lo faccia per decreto, se ne assuma la responsabilità politica davanti alla sua maggioranza, davanti al Parlamento e ai suoi connazionali. Nessuno, nemmeno lei, può prendersi la responsabilità etica, prima ancora che politica, di fare scivolare l'Italia dietro la Grecia agli occhi dei mercati. Egualmente duro Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, oggi sul prima pagina, mettere il paese davanti a tutto. Scrive De Bortoli: sarà anche ingiusto, ma oggi siamo percepiti come il lato debole dell'Europa perché non siamo più credibili. Non basta una lettera d'intenti, e Tremonti l'ha firmata, per dimostrare agli altri dopo mesi di ondeggiamenti che facciamo finalmente sul serio. Berlusconi sembra voler sopravvivere a se stesso, ma se non è in grado di adottare per l'opposizione della Lega provvedimenti seri ed equi, non solo sulle pensioni, ne tragga le conseguenze e in fretta vada da Napolitano, rimetta il mandato. Esiste in Europa, piaccia o no, un problema legato alla persona del Premier più che al governo, e la colpa è solo sua. Il cavaliere con il quale la storia sarà meno ingenerosa della cronaca è anche uomo d'azienda, sa valutare il momento in cui è necessario mettersi da parte per salvare la sua creatura. E così Ezio Mauro su Repubblica, il titolo è Un regime vuoto, il succo dell'editoriale in prima pagina è Dovrebbe dimettersi, ovviamente si riferisce a Berlusconi, consentendo al paese di provare a salvarsi finché è in tempo, ma non è un uomo di Stato e il suo destino personale gli preme più del destino dell'Italia. Si rinchiude in un'agonia democristiana da tardo impero che potrà produrre un accordo col minimo comune denominatore, ma non produrrà più né politica né governo. Vabbè, questo è il clima, insomma, il succo di tre editoriali, di tre quotidiani molto duri. Anche Il Giornale, per la verità, oggi titola Berlusconi oggi a Bruxelles si gioca tutto, nell'articolo di Adalberto Signore. Quando nel primo pomeriggio il Quirinale rimanda ieri al mittente una delle prime stesure informali del documento che oggi Berlusconi sottoporrà all'Unione Europea, la reazione del Cavaliere non è delle migliori, al punto che si fa strada seriamente la possibilità che il Premier possa non presentarsi al Consiglio Europeo in programma oggi a Bruxelles e mandare al suo posto Tremonti. Che, si sfoga in privato Berlusconi, sarebbe ora si assumesse qualche responsabilità anche lui. Un'ipotesi che resta in piedi poco, addirittura l'idea, scrive Il Giornale, ma lo scrivono un po' tutti, che Berlusconi arrivasse a disertare il secolo XIX, che arrivasse a dire vabbè, se volete mi faccio da parte. Insomma, sono ore di fibrillazione. Questo, l'avevamo detto ieri, era il giorno decisivo per produrre gli accordi e produrre le riforme da presentare oggi a Bruxelles. Non c'è stato un accordo, ma c'è un intento politico in questa lettera che oggi il Premier illustrerà appunto a Bruxelles. Francesco Verderami sul Corriere della Sera raccoglie un po' gli sfoghi anche dei vari ministri. Per esempio Matteoli: l'altra sera il governo era praticamente morto, dice in questo sfogo, che vero o no, insomma, siamo sempre nell'ambito dei retroscena della politica. Mentre Casini avrebbe detto ai suoi deputati: non temete, Berlusconi si salva anche stavolta. Sta di fatto che è un altro giorno davvero decisivo, perché Berlusconi va a Bruxelles e bisogna capire se la Lega, insomma, questo accordo forte o accordicchio che è stato raggiunto è un accordo, e poi di che tipo. Ecco, perché questa storia delle pensioni d'anzianità, che ancora oggi la Padania titola La Lega non molla, ma ieri il ministro Gelmini ma anche il ministro Alfano hanno detto che una sorta d'accordo è stato raggiunto. Allora, o c'è qualcuno che bleffa o è un gioco politico, oppure questo accordo c'è oppure no. Si scoprirà, lo scopriranno i mercati. Oggi intanto Libero fa un profilo di chi? Rosi Mauro, la signora forte della Lega, pagina 6, colei che è stata anche a capo del SIMPA, il sindacato padano, che ha detta la linea da un paio di giorni a dire il niet sulla questione delle pensioni. Adesso basta, ha tuonato lei, è arrivato il momento di smetterla, di mettere le mani nelle tasche dei lavoratori e dei pensionati. Da qui insomma la linea dura di Bossi. Originaria della provincia di Brindisi, dal 1980 si è trasferita a Milano per lavoro, sindacalista da sempre, e scrive il quotidiano Libero: è antipatico segnalarlo, ma l'ascesa irresistibile della vicepresidente del Senato all'interno del partito è successiva alla malattia del leader. Non c'è nulla di male, d'altronde la moglie del capo, Manuela Marrone, ha una predilezione per la sindacalista. Tra l'altro, Manuela Marrone ieri è stata citata dal presidente della Camera Fini dicendo, noi l'avevamo già detto qua, no? Sapete che Manuela Marrone, moglie di Bossi, è una baby pensionata, da quando ha 39 anni ha la baby pensione come insegnante. E ancora oggi i giornali si lanciano in analisi, insomma, del fatto che la difesa per quel che riguarda la Lega è una difesa anche del proprio elettorato per quel che riguarda le pensioni. Il Nord è tutto dei pensionati, così titola il Manifesto a pagina 4 con Mirko Viola, un articolo sull'accanimento della Lega, così definito dal Manifesto, sulla difesa degli assegni di anzianità, sta tutto in una cifra: il 65% dei beneficiari vive nel settentrione. Questa cifra, insomma, l'ha fatta uscire il Sole 24 Ore da qualche giorno. Mentre Marco Alfieri fa un articolo sulla Stampa, pagina 7, che vi invito assolutamente a leggere, tra i baby pensionati che ancora lavorano in nero. È un viaggio a Botticino, nel Bresciano, dove la parola d'ordine è arrotondare. C'è Paola, 61 anni, ex infermiera, pensionata da quando ne ha 52. Ma cosa fa? Beh, arrotonda da badante. Stefano, 57 anni, ex tornitore coi fiocchi. Quando è andato in pensione l'azienda non ne ha trovato uno altrettanto bravo. Allora che fa lui? Il pomeriggio in pensione, ma al mattino in nero, 20 euro l'ora in cui la ditta non versa un centesimo di tasse. Michele, 58 anni, 38 trascorsi da impiegato comunale, appena andato in pensione ha creato una società in accomandita semplice, intestata al figlio. In questo modo può lavorare da consulente esterno, un escamotage che gli permette di non vedersi decurtata la pensione. Giovanni, 57 anni. Anche lui in baby pensionato, ex insegnante di musica, impartisce lezioni di pianoforte ai ragazzi, ovviamente in nero, tutto comodamente, e così via. Botticino Italia, verrebbe da dire, tra i baby pensionati che ancora lavorano, la parola d'ordine arrotondare, in questo articolo di Marco Alfieri che vi segnalo, pagina 7 della Stampa. E noi ci fermiamo alle informazioni sul traffico. Allora, alle 7:48 minuti nella politica si deve registrare che cosa? Tutti i giornali si concentrano e dedicano più o meno una pagina a una vicenda che riguarda il presidente del Senato, Renato Schifani. Tirato in ballo da un pentito di mafia, Schifani accuse dal nuovo pentito, così titola a pagina 25 il Corriere della Sera, con un articolo di un'intera pagina di Giovanni Bianconi. Il pentito è Loverso. Stefano Loverso, già vivandiere e accompagnatore del latitante Bernardo Provenzano nel 2003-2004, consegna questa testimonianza. Nel 2003 Provenzano mi disse che con la politica non avevamo problemi né a livello regionale né a livello nazionale, perché avevamo nelle mani l'amico di suo padre e socio di suo padre, Renato Schifani, Marcello Dell'Utri, e al centro avevamo Cuffaro e il paesano di suo padrino Ciccio, Saverio Romano. Ecco, a 8 anni di distanza da quella presunta confidenza, Schifani è presidente del Senato. È indagato anche dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa, nella inchiesta riaperta un anno fa, fa sapere il Corriere. Il senatore Dell'Utri è condannato in secondo grado in attesa della Cassazione per concorso con Cosa Nostra. L'ex governatore Cuffaro è in carcere, mentre il ministro Romano, appunto, è diventato ministro e aspetta che un giudice decida se processarlo oppure no. Insomma, queste le accuse molto dure, la reazione è sdegnato, frasi infamanti, lo querelerò per calunnia. Ma insomma, tutti i giornali intanto titolano: l'ex vivandiere di Provenzano Schifani è nelle mani dei boss, così la Stampa, mentre il Fatto Quotidiano a pagina 2, Provenzano e la trattativa Stato-mafia, il pentito cita il socio e amico Schifani. Loverso accusa anche Romano e Dell'Utri. La cronaca l'avete sentita, è tutta nella tragedia legata al maltempo e al cemento, o meglio bisognerebbe dire al cemento e al maltempo, nel senso alla incuria del territorio, perché non è possibile che una pioggia, sebbene una pioggia torrenziale, possa creare problemi di questo tipo, con almeno già 5 morti e diversi dispersi in Liguria. Certo, l'espressione del governatore Burlando, il governatore della Liguria, che dice è l'apocalisse, in un'intervista a Repubblica, è vero, sarà vero, io ho visto le immagini, davvero sembra incredibile. E certo, poi bisognerebbe capire le cause di questa apocalisse. Crollano i ponti, è l'apocalisse, senza tetto, accolti in treni e palestre, così il governatore della Liguria, burlando, la Liguria devastata dai nubifragi, frane, fiumi di fango, ponti crollati. Il secolo XIX ovviamente dedica varie pagine a questo tema davvero incredibile. Noi invece, visto che siamo in quasi conclusione, vi ricordo che parleremo alle 8.30 della nuova Libia o dell'autunno islamico. Qualcuno l'ha detto subito, ha messo a paragone della primavera araba. Temete quello che sta succedendo in Libia, l'arrivo della Sharia, le dichiarazioni non certo incoraggianti del presidente del Consiglio Nazionale di Transizione, che però non è la rappresentazione di tutti i movimenti in Libia, però certo ha detto, per esempio, verrà la poligamia, toglieremo le leggi contrarie alla Sharia. Oppure in Tunisia il 40% è dato agli islamici come voto, ma votazioni normali, regolari. Peraltro gli islamici, come scrive oggi Bernard Ghetta su Repubblica, sono islamici moderati. E allora Bernard Ghetta dice: gli occidentali adorano mettersi paura, forse c'è addirittura chi inconsciamente non è affatto dispiaciuto di poter pensare che gli arabi non sono fatti per la democrazia, che esiste decisamente una vera e propria incompatibilità tra l'Islam e la libertà, per cui non si deve abbassare la guardia di fronte al fascismo verde. Le certezze, anche le più imbecilli, sono dure a morire. Resta comunque il fatto che Ennahda, cioè il partito islamico, non è il primo partito della nuova Tunisia, per cui domani saranno gli islamici a governarla. Insomma, però il tema c'è, ne parleremo alle 8.30. Infine vi segnalo, per concludere, Quattro Ruote ha fatto un'inchiesta, è andata a chiedere ai politici, a vari politici, quanto costa un litro di benzina? E ci sono le risposte più disparate, qualcuno non ha risposto, ha tirato dritto. Alcuni non sanno, alcuni azzeccano, insomma, tra 1,55, 1,60, 1,64. La Micaela Biancofiore, onorevole, quanto costa un litro di benzina? 1,10 euro. Ma come 1,10 euro? Ma in che mondo vive, onorevole Biancofiore? Ma magari! E il gasolio un po' meno, 1,07 euro. Ma come 1,07 euro? Onorevole Biancofiore, ma insomma... però insomma, anche Paola Concia del PD, 1,10 euro la benzina. Ma come 1,10 euro? Beati loro che vivono in questo mondo utopico. Il GR.